Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, buon anno naturalmente. Come augurio perché in quest'anno siamo felici, vi segnalo un libro di Plutarco, il grande scrittore greco vissuto tra il 46 e il 130 circa dopo Cristo, un autore molto prolifico, ma noto soprattutto per Le vite parallele, che erano delle biografie di personaggi greci e romani riunite in 23 coppie. E molti degli scritti di Plutarco sono stati raccolti sotto il titolo di Opere morali, e da queste opere morali sono stati tratti 7 brevi saggi che sono raccolti sotto il titolo del libro che adesso vi propongo, La vita felice, pubblicato da Einaudi, 208 pagine, 26 euro, e curato da Carlo Carena. Questa è una specie di breviario per affrontare la vita con un approccio sereno che ci può far intravedere, se non addirittura raggiungere, la felicità. Del resto, il tema della ricerca della felicità è antico e permanente, attraversa la stessa storia dell'uomo, e a leggere Plutarco ne scopriamo la modernità, che adesso ci illustra il curatore del volume, Carlo Carena. Buonasera Carlo Carena. Buonasera Torre. E buon anno. Ho cominciato bene? Bene. Ho cominciato leggendo questo libro, che appunto presento ai nostri lettori come un augurio per il nuovo anno, perché trovino la felicità. Ma la felicità, lei dice, bisogna anche cercarla. Lei e Plutarco ci dicono bisogna anche cercarla, e anzi lei scrive che questa ricerca della felicità consiste nel ben ragionare. Sì, lei sa che Plutarco non è un filosofo profondo, non un metafisico, anzi la sua grande qualità agli effetti di noi poveri mortali è proprio di essere stato un letterato che si dilettava, approfondiva la filosofia. Ma anche alla filosofia si è avvicinato senza grandi presunzioni, grandi propositi, ma piegandosi su di noi, guardando che cosa e come l'uomo può nella sua vita costruirsi una felicità, essere felice. E appunto non deve mirare molto, troppo in alto. La felicità, direi, è quasi a portata di mano. In uno di questi dei saggi di Plutarco, le operette morali, si può dire, che sono una settantina di Plutarco su argomenti molto vari, dalla scienza alla filosofia, alla dietetica, alla salute, eccetera. In questo libretto ne sono raccolti 4 o 5, ed egli ci accompagna nelle varie fasi di questa ricerca, che potrebbe essere anche una meta per l'anno che sta incominciando. Sta lontano dai due eccessi. Di solito quando si parla della vita felice, gli antichi parlavano della vita felice, o erano gli epicurei o erano gli stoici. Epicuro, dice Plutarco, il piacere non è quello della pancia, il piacere è quello di compiere una bella azione, di essere sempre pronti a fare il bene, e di quello che è il bene è quello che è anche degno dell'uomo. Gli epicurei sono volgari, perché Vadano, Epicuro e i suoi compagni si circondavano soltanto di donnette da 4 soldi e si immergevano nei piaceri della carne. Gli stoici ci consigliano delle cose impossibili, dolorosissime, difficili da raggiungere. Cerchiamo invece nella vita quotidiana, cerchiamo di badare al sodo. Apriamo il sipario, dice a un certo punto in una di queste operette, andiamo a fondo, vediamo. Ti sembrano tanti uomini, tante persone, amici, vicini, eccetera, ti sembrano felici, ma se togli il sipario, dietro la felicità è solo un'apparenza, un simulacro, perché dietro o sono disonesti o sono investiti dalle sciagure che loro stessi vanno cercando. E infatti lei, nel presentare queste pagine di Plutarco, parla di saggezza della misura, di armonia pacifica. Ecco, queste virtù sono delle virtù anche un po' borghesi, mi sembrano, no? Sì, si può definirle anche così, ma del resto anche il grande collega, insegna il grande collega di Plutarco, romano in questo caso, il poeta Orazio, non è che dicesse poi cose molto diverse. Questa era un'etica che all'età imperiale, quando ormai i grandi eroismi non c'erano più sulla scena, la ricerca di una vita appartata è il vivi nascosto, e accontentati del poco che in Orazio, tutto questo espresso dalla poesia. In Plutarco non è forse così estremo, ma certamente la medietà, e la si riscontra in tutto, dice lui, ci spiega in alcune di queste operette, si può trovare anche, si deve cercare anche nella famiglia, nella vita familiare, nell'armonia che deve regnare tra il marito e la moglie. Per la verità, non vorrei offendere le ascoltatrici, ma Plutarco dice che questa armonia si fonda più sul potere del marito che su quello della moglie. Però come il marito non deve amare soltanto il fisico di una moglie imbellettata, come lui dice, e anche la moglie deve guardare nel marito se è una persona onesta, oltre che bella. Naturalmente anche il bello è una virtù, ecco, se è ben coltivato. E anche a tavola questa medietà è raccomandata da Plutarco. Te ha letto, ha visto uno di questi saggi, è proprio dedicato alla dieta ideale, no? Adatto a questo periodo che segue gli stravizi. Perfetto, esattamente. Plutarco, tra l'altro, si è detto, è anche un vegetariano. E anche a tavola dice, non mangiate troppo, soprattutto non mangiate troppa carne. Si devono temere le indigestioni che provoca la carne, i cibi a base di carne, perché appesantiscono lo stomaco. Guardatevi intorno, la terra offre ben altre sostanze oltre agli animali, ci sono delle sostanze come i vegetali eccetera che sono molto gustose se ben allestite e che favoriscono una digestione più facile, quindi direi, appunto, come dice lei, possiamo seguire il suo consiglio. Dice, non bisogna essere come dei lupi o dei leoni che divorano la carne a più non posso, bisogna semmai usarla soltanto per sostenere il corpo fisicamente, però senza, come dice a un certo punto Plutarco, senza logorare l'intelletto. Ecco. A proposito di questo, nella tranquillità dell'animo, Plutarco scrive che bisogna rendersi capaci di guardare in faccia la sorte a occhi aperti, anziché crearsi immaginazioni fiacche, molli, che nutrite al riparo dell'ombra di molte speranze, sempre cedono e mai resistono. Mi sbaglio o non avrebbe apprezzato la realtà virtuale, Plutarco? Sì, ha ragione. Non bisogna dimenticare che egli è stato anche ed è soprattutto famoso per le sue vite parallele, cioè per le vite dei grandi uomini dell'antichità. E anche lì, appunto, si può andare a pescare quelle che sono le virtù dell'uomo forte, dell'animo forte, che resiste, che si propone ideali di moralità, di giustizia e anche di valore, perché la prova del campo di battaglia allora era una prova della forza dell'animo. Questa forza d'animo che serve a sopportare le traversie, che certamente non mancano mai, per mantenere un animo costantemente sereno e tranquillo. Il suo ideale è quello. L'augurio che lui ci fa a Capodanno è di resistere a quello che purtroppo i tempi certamente porteranno anche nell'anno che viene, ma per il quale dà consigli per come affrontarlo. La sua raccolta si conclude con 25 detti di re, di generali, di spartani, raccolti naturalmente da Plutarco. Quale potrebbe scegliere come augurio per i nostri ascoltatori? Ma di poter rispondere come rispose quello spartano a cui chiesero di cos'era capace lui, questo poveretto, tra l'altro innominato, cos'era capace di fare, e lui gli rispose: sono capace di essere un uomo libero. Credo che questo sia un bel augurio. Oppure quell'altro a cui chiesero: ma tu cosa possiedi, che patrimonio hai, eccetera, e lui gli rispose: possiedo non soltanto quello che mi basta. Credo che questo qui è quello che conti, accontentarsi di quello che si ha e farlo bastare. Ecco, quindi essere liberi e accontentarsi di quello che ci basta. Grazie a Carlo Carena, curatore della Vita Felice di Plutarco. Buon anno e buona serata. Altrettanto a lei e agli ascoltatori. Sempre come introduzione all'anno nuovo, soprattutto ai lettori seniores, segnalo il libro di un infaticabile divulgatore, Roberto Vacca, Come imparare una cosa al giorno e non invecchiare mai. È pubblicato da Mondadori, 244 pagine, 17 euro. Vacca, 88 anni benissimo portati, ci dice che sono invidiabili i vecchi che hanno mente sveglia e atteggiamenti aperti, continuano a guardare il mondo e a imparare, si lamentano poco, aiutano gli altri a capire e a fare cose giuste. Per la verità questo non è soltanto un libro per seniores, per anziani che vogliono mantenersi in forma, perché come ci dice l'autore anche molti giovani e persone di mezza età non hanno menti proprio brillanti, sono spesso inefficienti, leggono pochi libri e non scelgono i migliori. Beh, evidentemente, aggiungo io, non ascoltano questa trasmissione. E poi dice Vacca, le nostre capacità mentali dipendono solo in parte dal nostro DNA, insomma bisogna tenersi in esercizio. E ai suoi coetanei Vacca insegna tante cose, a cominciare dall'impegno a fare ginnastica mentale, a perseguire una strategia che sembra proprio degna di Plutarco, che abbiamo sentito poco fa, perché ci si deve abituare, anziani e direi tutti, ci si deve abituare a gestire dolori, piaceri, paure, illusioni, solitudine, compagnia, alimenti, abitudini costruttive e distruttive, come evitare i rischi comportati da chatting e reti sociali. E si conclude il libro con alcuni esercizi e con la descrizione di alcune innovazioni che possono rendere più facile la vita a tutti. Vi segnalo poi due libri che si collegano ai primi titoli di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Il primo è un libro quasi di ispirazione plutarchesco, piuttosto senechiano, e si intitola L'introduzione alla vita saggia di un grande giornalista italiano, Gianni Brera, morto nel 1992, libro nel quale troviamo descritto il rapporto di Brera con i farmaci e soprattutto con l'ansia, un libro nato per commissione di una società farmaceutica, come ci spiega il figlio. Con l'ansia, Brera ha un rapporto di convivenza quasi serena, perché secondo Brera lo stato di ansia è un sintomo eletto nel quale è costantemente implicita l'idea di progresso spirituale e materiale. Nonché temuta, l'ansia va dunque accettata e padroneggiata secondo i dettami della scienza. E questo libro, a 74 pagine, costa 8 euro ed è pubblicato dal Mulino. Sempre il Mulino, nella stessa collana, ci offre un libro che ci riporta nell'antichità classica, in questo caso a Roma, con Piero Boitani, che è uno storico di letteratura comparata. Il libro si intitola Tre favole romane, 110 pagine, 9,50 euro. Sono tre storie che hanno a protagonista Augusto, ormai sul finire della sua vita, un senatore incuriosito da una nuova setta che si sta diffondendo in Oriente, che chiamano cristianesimo, e il nipote di questo senatore, a sua volta senatore, che assiste o sta per assistere alla fine, al crollo dell'impero romano. Ed è un libro, ci dice l'autore, scritto per divertirsi, un libro scherzo, rivolto per esempio a chi cercherà di azzeccare le citazioni contenute in questo libretto, ma soprattutto un libro che ci fa cogliere in modo leggero, leggibile, ma particolarmente efficace, la forza e la fortuna dell'eredità classica e soprattutto il mito di Roma che i tre protagonisti sembrano prefigurare rispetto ai secoli successivi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si è aperto un anno molto particolare e molto importante, non solo per Milano ma per tutta l'Italia, l'anno dell'Expo di Milano. E allora vi segnalo in questa occasione un libro di Lucia Bisi che si intitola La piazza imbandita, mercati storici lombardi tra XVIII e XX secolo, pubblicato da Schirà in una collana dedicata proprio all'Expo, 160 pagine, 29 euro. Le piazze dei mercati erano il centro dell'economia e della socialità nel le città, in particolare di quelle lombarde, e qui in questo libro, anche attraverso le belle rare immagini, ce ne sono alcune anche di inedite, facciamo un viaggio nei mercati lombardi che hanno definito lo stesso assetto urbanistico di tanti paesi e città di questa regione. E Milano in questo sistema è il mercato di tutti i mercati, così la definisce l'autrice, e al centro di questo mercato di tutti i mercati c'era il Verziere, il famosissimo mercato così descritto, un mercato opulento, copioso di vivande ricercate, incessantemente rifornito dalle immense ortaglie che cingono la città dentro e fuori le mura, dai fiumi, dalle boscaglie, dai prati irrigui, che incarna l'immagine utopica del mercato quasi impossibile da svuotare. Una tradizione che continua, perché, ci ricorda l'autrice, attualmente a Milano sono presenti 86 mercati rionali alla settimana, che hanno luogo ogni giorno in sedi diverse con un'offerta alimentare di tutti i generi. Persiste, in un certo senso invariato, quel centinaia di piazze presenti in città nel 600. L'Expo è, come sapete, dedicato proprio al tema dell'alimentazione. Allora affrontiamo adesso un tema affascinante, quello degli odori e delle fragranze in letteratura. Comincio con un libro che si intitola Il profumo della letteratura, curato da Daniela Cianiforza e Simone Francescato. È pubblicato ancora da Schiratre, 182 pagine, 26 euro. Questo è un libro voluto dall'associazione tra le imprese italiane che producono cosmetici, e devo dire che è un buonissimo segno che le aziende pensino di farsi conoscere pubblicando dei libri e non soltanto organizzando eventi, come si dice adesso. Qui troviamo una serie di saggi sul tema, scritti da grandi specialisti e da nomi famosi anche. Il tema viene affrontato da diversi punti di vista, visto che, come ci dicono i curatori, la letteratura non può fare a meno di riflettere l'esuberanza con cui la sfera olfattiva pervade i suoi contenuti, le storie narrate che ci accompagnano attraverso visioni e sensazioni animate dall'arte della parola. Per esempio, in uno di questi saggi, Sergio Perosa affronta il tema del profumo e Shakespeare, analizzando le opere teatrali e i sonetti del grande drammaturgo e consentendoci delle scoperte come questa che possiamo trarre dal dramma Antonio e Cleopatra. Una superba evocazione dell'effetto inebriante del profumo, che par quasi di odorare mentre si legge, è nella splendida descrizione che Enobardo fa di Cleopatra, culminante proprio con l'effetto stravolgente del suo espandersi, nella galea che la porta sul Cidno e arde sull'acqua come un trono brunito. La poppa era d'oro battuto, di porpora, le vele così profumate che le brezze ne languivano d'amore. Dalla galea un profumo sottile e arcano colpisce i sensi sulle rive vicine. La città si riversò fuori ad ammirarla e Antonio, in trono sulla piazza del mercato, rimase solo a fischiettare all'aria. Quale maggior potere del profumo potremmo immaginare? Un profumo di cui sono impregnate le vele stesse e l'aria, che tutto avvolge e pervade e fa tutt'uno con la galea. Questi che ho raccolto fin qui sono solo alcuni spunti, labili come il profumo delle violette. E infatti, avvertenza letteraria culturale, il profumo più forte e che rimane è quello che emanano i versi stessi di Shakespeare, anche i più truci. Hanno l'alito buono. Non ci allontaniamo dal tema con il libro di Giovanna Zucconi, La sua voce è profumo, passeggiata letteraria tra aromi, odori, fragranze. Questo è pubblicato da Mondadori, 214 pagine, 12 euro. Qua troviamo il tema del profumo, che apparentemente non si presta alla descrizione letteraria, perché come fai con le parole a rendere un profumo? Eppure grandi scrittori ci sono riusciti, scrive l'autrice, e qui troviamo varie testimonianze di questa capacità, raccolte nei vari capitoli, che affrontano vari aspetti del modo in cui l'odore e il profumo sono stati trattati, magari da prospettive insospettabili. Per esempio, un autore di cui quest'anno parleremo, immagino, in varie occasioni, perché ricorre il 65esimo anniversario della morte, cioè George Orwell, ci dà un'insolita lettura attraverso gli odori della lotta di classe. Arriviamo ora al vero segreto delle distinzioni di classe in Occidente, la vera ragione per cui un europeo di origini e educazione borghesi, anche quando si definisce comunista, non può pensare, se non con un profondo sforzo, a un operaio come a un suo pari. Si riassume in quattro tremende parole che la gente oggi dice con cautela, di rado, ma che durante la mia infanzia si udivano con grande frequenza. La gente bassa puzza. Thank you. Nel libro di Zucconi si parla anche di fragranze, allora vi segnalo una finta fiaba africana per europei ben pensanti, questo è il sottotitolo del libro La via del pepe di Massimo Carlotto, illustrato da Alessandro Sanna, pubblicato alle edizioni EO, 42 pagine, 9,50 €. Qui troviamo un pugno di grani di pepe che segnano il destino di un bambino di colore naufragato alle viste di Lampedusa. Questo libro raccoglie il testo di uno spettacolo fortunato di Carlotto che è stato messo in scena alcuni mesi fa con un accompagnamento musicale. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un libro che ci può aiutare a capire l'origine di tante polemiche di cui abbiamo letto nelle settimane scorse, soprattutto in Francia, a proposito del presepio, dell'esposizione del presepio in luoghi pubblici che ha dato adito a grandi discussioni in quel paese. Il libro che vi segnalo è di Roberto De Mattei, che è uno storico e che si intitola Il ralliement di Leone XIII, il fallimento di un progetto pastorale, pubblicato da Le Lettere, 366 pagine, 35 €. Che cosa c'entra questo libro con i presepi francesi? C'entra perché questo libro parla proprio di un tentativo che fece il Papa Leone XIII fino a poco tempo prima che morisse, questo avvenne nel 1903, di avere un accordo non soltanto con la Francia ma con gli stati moderni europei in modo da definire appunto i ruoli della Chiesa e dei governi civili. Questo tentativo di Leone XIII non ebbe fortuna e anzi, secondo l'autore, segnò negativamente i successivi sviluppi. E proprio espressione del fallimento di questa politica di Leone XIII furono le leggi laiche che la Repubblica emanò in Francia e alle quali si sono richiamati i nemici del presepio nelle settimane scorse. Poi vi segnalo alcuni altri volumi, innanzitutto il libro di Giorgio Forattini, C'era una volta un pezzo di legno, pubblicato da Mondadori, 208 pagine, 19 €. Qui troviamo la tradizionale raccolta del grande disegnatore satirico che prende di mira quest'anno i personaggi e le vicende più significative degli ultimi mesi politici, soprattutto italiani. Il pezzo di legno è Renzi, raffigurato nelle sembianze di un Pinocchio che in copertina viene scolpito da un Geppetto napolitano. Poi vi segnalo il libro di un filosofo evoluzionista, Telvo Pievani, che ci propone un libro che non mancherà di preoccupare i nostri ascoltatori, e cioè Il maschio è inutile, scritto con Federico Taddia, pubblicato da Rizzoli, 152 pagine, 15 €. Questo è un saggio quasi filosofico su un fenomeno ormai conclamato, perché secondo l'autore in natura il sesso debole è quello maschile, non c'è più dubbio, il futuro evolutivo è donna, lo si evince dalle molteplici categorie di inutilità che si addicono ai maschi contemporanei. E poi vi segnalo una saga storica che è quella di Con Iglden, famoso scrittore inglese di romanzi storici, che si misura questa volta con la Guerra delle Due Rose che insanguinò l'Inghilterra a partire dal 1437. È stato pubblicato il primo volume della saga, La Guerra delle Rose, pubblicato da PM, 518 pagine, 12,90 €, con la traduzione di Paolo Merla. A questo primo episodio, che si intitola Stormbird, seguirà Trinity, una serie che in Inghilterra ha avuto un enorme successo. E infine vi segnalo il libro di un personaggio molto popolare, Alfonso Signorini, che ha scritto L'altra parte di me, pubblicato da Mondadori, 172 pagine, 18 €, dove troviamo le memorie di un paesano, come si definisce lo stesso autore, che difende questa sua origine, che gli dà da un lato l'attaccamento a valori genuini e tradizionali, scrive lo stesso Signorini, come quello della famiglia, dell'amicizia, dell'onestà e della fatica. Il confettino. Oggi vi segnalo un libro adatto a piccoli e grandi. Avete riconosciuto uno dei brani più famosi di Keats, che è il capolavoro tratto da un altro capolavoro poetico di Thomas Stearns Eliot, il grande poeta americano di nascita e inglese di adozione, premio Nobel 1948, di cui proprio ieri ricorreva il cinquantenario della morte. E il musical è tratto dal suo libro Il libro dei gatti tuttofare, che adesso ci viene riproposto con le illustrazioni di Axel Scheffler e la traduzione di Roberto Sanesi da Bompiani, 64 pagine, 15 €. Qua troviamo dei versi che non mancheranno di incantare grandi e piccini che impareranno come ci si rivolge ai gatti. Vi cito solo questi versi. Con i gatti si dice solo un proverbio, è vero. Meglio non essere i primi a parlare, ma io ritengo, per essere sincero, che un gatto lo si debba interpellare sempre, tenendo a mente che diffida di un'eccessiva familiarità. Perciò mi inchino, mi tolgo il cappello e mi rivolgo a lui dicendo: gatto. E quindi a me non resta che inchinarmi, togliermi il cappello, augurarvi buon anno e buona serata, non senza aver ringraziato Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia, e avervi ricordato il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Ancora buon anno e appuntamento domenica prossima.